Italia in controluce. In studio Daniele Biacchessi su Radio 24, oggi è il 27 settembre, controluce dedicato alla rivolta di Taranto. Sono giorni della protesta, dello sciopero, operai che restano sul camino E312 rifiutando il cibo e l'acqua dopo il no del GIP al piano dell'azienda per il risanamento degli impianti inquinanti e anche al mantenimento di un minimo di produzione. In corso i blocchi stradali, di scioperi, film e Wilm con scioperi e blocchi stradali, ma la FIOM si dissocia. Voi cosa ne pensate? 349-238-6666 sono i nostri sms. Allora, in diretta con Valentina Furlanetto. Sì, buongiorno a te, gli ascoltatori, ancora una volta siamo qui per raccontarvi cosa sta accadendo a Taranto, dove la tensione è molto alta dopo la decisione del GIP del Tribunale di Taranto. Patrizia Todisco, ieri vi ricorderete, ha bocciato la richiesta dell'azienda di continuare a produrre e il relativo piano di investimenti immediati per risanare gli impianti sequestrati. Questa mattina, come dicevi, è iniziata la 2 giorni di scioperi indetta da FIM, CISL e UIL. E Will, invece la FIOM CGL non ha aderito. Stamattina ha parlato anche il procuratore di Taranto, Franco Sebastio, ha detto: non so l'Ilva che tipo di ricorsi deciderà di presentare, se non ci saranno modifiche ai provvedimenti esistenti, le procedure però andranno avanti e saranno inevitabili. Si parla quindi di spegnimento. Ci sono stati dei blocchi stradali, come dicevi, alla statale 100 in direzione Bari, la statale 106 ionica che porta verso la Calabria. Alcuni operai hanno passato la notte a 60 metri di altezza sul nastro trasportatore dell'Alto Forno 5 e sulla Torre del Camino E312. Ha parlato anche questa mattina il ministro dell'Ambiente Corrado Clini: per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale all'Ilva stiamo continuando a fare quanto programmato, ha detto, stiamo lavorando per il rilascio di questo documento applicando la legge italiana e le direttive europee. Qualche altro breve dato: all'Ilva di Taranto rischiano il posto di lavoro circa 5.000 operai. Vi ricorderete, a fine luglio il GIP aveva intimato lo spegnimento degli impianti e ieri lo ha confermato. Secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, nelle aree vicine allo stabilimento l'incidenza dei tumori è del 15% superiore alla media, con un picco del 30% per il cancro al polmone. Secondo il GIP, 386 decessi avvenuti tra il 98 e il 2010 sono attribuibili alle emissioni Ilva. Io saluto Giuseppe Farina, segretario della FIM di Taranto. No, della FIM CISL nazionale. FIM CISL nazionale. Allora, Farina, resti lì e sentiamo al microfono di Domenico Palmiotti le voci degli operai e dei cittadini dei comitati mentre sono in corso i blocchi stradali. Sto vedendo in diretta fotografie e video con anche momenti di tensione tra operai e polizia e forze dell'ordine. Sappiamo che in discussione il nostro posto di lavoro e tutti quei progetti che servivano per ambientalizzare e per rendere una città meno inquinata e assicurare i posti di lavoro sono stati messi in discussione. Noi chiediamo anche che il governo faccia subito, al più presto, la sua parte, come sta facendo la magistratura, perché non si possono mettere in discussione le fabbriche. Si chiudono le fabbriche, chiude tutto. In questo momento abbiamo molto più paura di prima, perché la situazione sta degenerando sempre di più. È stato chiesto il fermo degli impianti e sappiamo che in queste condizioni la fabbrica non può restare aperta. Ho con me un rappresentante del Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti. Con i lavoratori adesso c'è un qualche riavvicinamento? Oggi vi siete parlati? Le giustifiche sono sempre le stesse. Noi siamo dalla stessa parte praticamente. Le ragioni sono uguali, solo che sbagliamo il posto dove creare il disagio. Il disagio non lo dobbiamo creare alla città. La città ne ha avuto già tanto di disagio, inquinamento, disoccupazione. Non dobbiamo crearne altro. Io ho fatto la prima occupazione qua alla strada, il 2, la prima. Mi sono sentito un burattino e là ho cambiato idea. Boh, non dobbiamo bloccare Taranto. Taranto è con noi. Noi dobbiamo crearlo a chi ce l'ha creato fino a mo', a chi non ha voluto fare niente per mettere in regola l'Elba, cioè Riva e tutti i capi che ci stanno dentro, perché mangiano anche loro. Quando saliranno sulle torri questi politicanti ladri ed incapaci sarà il segno forse di un cambiamento reale. Al 349-238-6666, giusto che la CGL sia d'accordo col giudice, altrimenti decenni di lotta per l'impoverimento della nazione sarebbero vanificati. C'è chi chiede chi e cosa rende il GIP così intransigente? I nostri ascoltatori. Allora, Farina, sempre lì con noi, ascoltiamo insieme l'intervista di Valentina Furlanetto e Maurizio Landini, segretario della FIOM. È uno sciopero che in realtà ha delle ambiguità, tra l'altro le stesse organizzazioni che l'hanno proclamato, FIM e UIM, dicono nei loro comunicati cose diverse. E c'è il rischio in questa fase di fare uno sciopero inutile che contesti scelte della magistratura. In questa fase, secondo noi, bisogna mettere i lavoratori nelle condizioni di discutere e di decidere assieme, non di dividerli, perché il problema per salvare il lavoro e continuare a produrre, che è un obiettivo comune, credo, dei lavoratori dell'Ilva, passa attraverso il fatto che l'azienda si impegni a fare investimenti molto più cospicui di quelli che ha annunciato e collabori anche con la magistratura per affrontare il problema. E noi chiediamo che sia possibile già dalla prossima settimana poter avere un incontro anche con il governo che coinvolga tutte le parti sociali per mettere in fila le cose da fare. Farina, dove sta il problema tra voi e la FIOM? Ma intanto, prima che il problema tra noi e la FIOM, il problema vero è quello appunto dei lavoratori della Ilva di Taranto, della siderurgia e dell'industria nazionale, che rischiano di perdere uno dei pezzi più importanti, diciamo, del tessuto industriale. Quindi questo mi sembra il primo problema. Secondo problema, le esasperazioni, diciamo, e anche le iniziative di lotta dura che si stanno tenendo devono fare i conti con una considerazione che bisogna fare. Sono lavoratori che sanno che se perdono quel posto di lavoro non ne trovano altri, e quindi va in gioco il futuro di se stessi e delle loro famiglie. Quindi esasperazione e responsabilità, come dire, vanno coniugate, però certo dalla FIOM mi sarei aspettata altrettanta responsabilità sulle vicende Fiat, dove anche lì c'era da difendere investimenti e una prospettiva per un settore industriale. Rispetto al tema in generale, poi insomma sono i risultati che contano. L'adesione allo sciopero è stato totale, quindi nonostante i tentativi della FIOM di ostacolarlo, l'adesione è stata totale, e lì, la mia impressione è che i vincoli che ha la FIOM sono più di natura politica, perché in questo momento la FIOM è più interessata a quello che deve accadere nelle prossime elezioni politiche, quindi a salvaguardare. Sì, ma mi scusi, ma la gente forse non interessano questi problemi. Questi problemi, diciamo, tra voi, anche perché forse anche i nostri ascoltatori chiedono invece di chi è la responsabilità, e in molti lo hanno fatto in pochi minuti nei vostri SMS, di chi è la responsabilità di quello che sta accadendo. La responsabilità indubbiamente sono dei ritardi e delle cose che non si sono fatte di negli anni e che hanno. Sono del governo, sono della politica, sono degli imprenditori, sono di tutti i soggetti che avrebbero dovuto, e io ci metto anche per qualche responsabilità il sindacato, anche se certamente non può essere, diciamo, responsabilità del sindacato quello che sono la gestione dell'ambiente di un territorio e quelli che sono i rapporti tra la fabbrica e un territorio, questa attengono alle competenze, alle deleghe della regione, del comune, del governo, ma in ogni caso ci sono delle responsabilità che si sono accomunate. Ora però qual è il punto? Che tutte queste discussioni le abbiamo già fatte a fine luglio, ai primi di agosto, a metà agosto, e ci si è dato un programma di lavoro per superarli i problemi, perché non basta enunciarli i problemi, per quanto gravi, poi bisogna darsi un piano di azione, ed è quello che il governo sta facendo. E quindi io mi sarei aspettato e mi aspetto ancora, pur salvaguardando, come dire, non avendo nulla a che dire, perché la magistratura ha la sua autonomia e quindi è bene che operi e faccia le sue cose, però l'impressione di una mancata, di una scarsa serenità nella procura di Taranto, questa impressione c'è anche nei giudizi che il GIP di Taranto dà accompagnando dei provvedimenti. Certo. Prenda i provvedimenti, ma non ci Grazie. Faccia dei commenti che hanno un sapore politico. Grazie Giuseppe Farina, segretario Prego. Della FIM CISL. Molti ascoltatori ci fanno i complimenti, poi ce n'è uno che dice che sono i classici classico giornalista che vuole sempre fare apparire sempre i fatti più gravi di quanto non lo siano realmente, cioè faccio il giornalista, appunto. E vi ringrazio, domani torniamo nuovamente, come sempre, Italia in controluce, l'approfondimento di Radio 24 sui temi più importanti della giornata. Vi ricordo Facebook, pagina, gruppo, controluce@radio24.it, la nostra email.